alzato alle 10, veleno eseduto da Mario davanti a una grappa e un posacicca pieno. Lo salutano strano, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione. Una foto di donna gli è bruciata dentro la giacca, chiaramente dalla parte del cuore, e la gamba gli duole del peso del freddo di un cannone che chissà come è riuscito a trovare. Non ho tempo né voglia di fregare Dio, perché può contare soltanto sul suo dolore, sui suoi colpi e infine su di sé. Sai che ho scelto la donna sbagliata, e forse ho scelto per tutta la vita. Altra scelta chi ha e a chi farla finita. Sai che ho scritto bestemmie sul cuore, però i conti per sé li sa fare. Il totale non cambia anche se fa star male. Però non piango mai se non è davvero solo. I duri hanno due cuori, col cuore buono amano un po' di più. I duri hanno due cuori, col cuore guasto odiano sempre un po' di più. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Un quarto alle due, veleno seduto sul ponte sul fiume a vedere la pistola affondare. Adesso il freddo è reale, è passato alle ossa, uscendo per forza dal cuore. Di così tanto mondo c'è solo un posto in cui possa tornare, e gli scappa una stramaledizione. Sta pensando che la sera dopo darà un cazzotto ad un tipo che questa sera rideva di lui e si è fatto sentire. Darà pugni alla porta di camera sua, urlerà alla sua donna e al suo amico di fare più piano, e sul suo divano si stenderà. Notte di chi sia un amante, e la notte di chi non ha niente, e la notte per forza, volenti o nolenti. Se chi ha perso una brutta partita, però forse una fish gli è restata, e può darsi ci sia un altro giro.